L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, in questa puntata dell'Altro Pianeta parleremo tanto di verde, verde come agricoltura e foreste, queste ultime in particolare nella seconda parte della trasmissione. La scorsa settimana a Firenze si è tenuto l'Expo Rurale, un po' funestato a dire il vero quest'anno dal maltempo, c'è stata quella bomba d'acqua cosiddetta che ha fatto gravi danni in città, meno al Parco delle Cascine dove si teneva l'Expo, ma certo ce la saremmo tutti risparmiata molto volentieri, soprattutto immagino gli allevatori che avevano portato lì cavalli, mucche, asini, muli, galline, insomma tutto e tutti da mettere al riparo in fretta e furia. In ogni caso c'erano anche gli stand delle scuole superiori di agraria e della scuola di agraria della Università di Firenze che in questi ultimi anni, ma soprattutto in questo 2014, hanno registrato un vero e proprio boom di iscritti, tanto da non saper bene come gestire tutti questi studenti. Ce l'ha raccontato Angela Baldini, che è docente di produzione vegetali all'Istituto Tecnico Agrario appunto di Firenze. Ma io penso che sia più che altro un po' la congiuntura economica e in quanto c'è anche questa voglia di cose più concrete, ritorno alla terra, ritorno all'alimentazione sana e così via. E poi indubbiamente noi come Istituto Agrario di Firenze abbiamo lavorato in questi anni molto per l'orientamento, anche per spiegare come è importante cominciare proprio dalla terra per arrivare a una questione di salute globale del nostro corpo e poi del pianeta anche. Ecco, questo qui. Il messaggio non è solo economico, diciamo, della difficoltà italiana o europea in questo momento, ma secondo lei anche proprio la difficoltà del pianeta, diciamo, sì, nella sua sostenibilità in genere? Esatto. Noi si lavora anche molto appunto sulle scienze applicate e quindi un discorso di agricoltura sostenibile che guarda un po' lontano, ecco, nel futuro, e ci si auspica in un futuro positivo, ecco, un po' migliore rispetto a questo. Gli anni anche dell'istituto sono cambiati rispetto... Sono cambiati molto, soprattutto ora con l'ultima riforma Gelmini, abbiamo 3 indirizzi piuttosto specifici, uno proprio sulla gestione dell'ambiente e del territorio, uno viticoltura ed enologia, più specifico anche rispetto al contesto territoriale in cui ci troviamo, con il Chianti e così via, e l'altro invece più dedito alle trasformazioni agricole, quindi tutto un settore dell'alimentazione e dell'agroalimentare. Al momento le scelte si fanno in terza, quindi il primo biennio, diciamo, per gli istituti tecnici è molto simile, infatti possono anche gli studenti poi scegliere di passare da un istituto tecnico ad un altro. E per invece la scelta che si fa nel triennio, da noi, diciamo, quello preferito è la gestione dell'ambiente e del territorio come settore. Comunque quest'anno noi abbiamo avuto 10 prime e abbiamo dei problemi proprio di spazi, di ricerca di aule, stiamo ruotando le aule cercando di fare lezione quando un'altra aula è in laboratorio, perché appunto siamo arrivati a questo. D'altra parte ci dispiace mandare indietro le iscrizioni e quindi speriamo che ci diano l'opportunità di ampliarsi anche come spazi. Visto che lei insegna una materia così specifica, immagino che molti ragazzi di oggi arrivino senza avere idea di come si produce d'assieme alla tavola. Cioè magari prima c'era più chiarezza su questo. Sì, esatto, no, ora noi lavoriamo anche parecchio sui ragazzini del biennio, loro insomma all'inizio hanno poca idea, ecco, ma è perché trovano tutto già confezionato, già predisposto, il pollo lo conoscono, il pollo quello che vedono al supermercato e basta. Quindi ecco, già quando arrivano nel triennio qualcosa cerchiamo di dargli noi all'inizio. Quindi noi abbiamo infatti anche un bel centro avicolo con allevamento di polli proprio, e quindi possono già vedere, abbiamo un'azienda di 16 ettari nel centro di Firenze, all'interno proprio del Parco delle Cascine, proprio una vera e propria azienda agraria didattica, però ecco, da lì cominciano un po' a capire da dove provengono gli alimenti che hanno sempre mangiato. Sì. Anche la scuola di agraria della università si trova lì nel Parco delle Cascine, quindi il passo, diciamo così, è breve per coloro che intendono proseguire in quel ramo di studi. Ma ci ha raccontato Cinzia Semplicini, che fa parte dell'ufficio di orientamento della scuola di agraria dell'Università di Firenze, gli studenti che si iscrivono o che comunque vorrebbero iscriversi arrivano anche da altri orientamenti di studio, anche dal liceo classico. Quest'anno abbiamo avuto un'iscrizione ai test di autovalutazione di circa 800 studenti, che per noi è un numero veramente molto molto importante. Non è detto che tutti questi 800 poi si iscriveranno, perché le immatricolazioni sono appena iniziate, dal 15 di settembre fino al 17 di ottobre. Però già il fatto che più di 800 ragazzi si sono iscritti... La cifra qual è? No, molto meno. L'anno scorso eravamo sui 600 iscritti al test e già eravamo molto soddisfatti. Quest'anno siamo andati ancora molto meglio. Comunque le nostre immatricolazioni l'anno scorso era circa più di 500 immatricolati. Per noi, altre facoltà no, per noi sono numeri importanti. Certo, e vi siete dati una spiegazione del perché? È una moda, è un... Forse perché comunque Agraria un minimo di siamo belli, sì, no, un minimo di possibilità di lavoro ancora c'è, insomma, le aziende agricole in Toscana per fortuna ce ne sono tante. Noi abbiamo il corso di viticoltura e enologia che va molto bene, il corso di tecnologie alimentari che è un corso abbastanza nuovo e insomma dà possibilità ancora di trovare qualche impiego, insomma, forse per questo. Può essere anche una moda, non lo so. Però il periodo della moda dei cuochi e del cibo, e quindi magari c'è anche magari vedono le trasmissioni però non è proprio così, perché noi tecnologia alimentare è lo studio dell'alimento, non è che poi si diventa cuochi, però tutto fa, insomma. Sono ragazzi che provengono da corsi già, diciamo, affini, che quindi magari vengono dall'istituto tecnico. L'istituto agrario sicuramente è proprio, cioè, automatico. Però abbiamo anche da altre scuole, liceo scientifico, dalla scuola alberghiera, anche lì legato al discorso della cucina, alimentazione, no? Anche dalla scuola alberghiera arrivano. Sì, sì, comunque anche licei, molto, addirittura dal classico, per dire. Vabbè, vuol dire appunto diversifica. Sì, ma perché Agraria è una facoltà che deve piacere, cioè non la fai tanto per fare o dire, ma non sono sicuro, forse faccio economia. Agraria deve piacere perché è anche abbastanza sacrificio, cioè ci sono magari meno ore di lezione in classe, però c'è tanto fuori, bisogna alzarsi alle 6 di mattina con il caldo, con il freddo, per monitorare gli animali oppure andare in campo. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Allora veniamo proprio al progetto EMUNFUR, che è un acronimo che sta a indicare l'istituzione di una rete di monitoraggio delle foreste urbane e periurbane della Lombardia e della Slovenia. È un progetto LIFE, quindi finanziato dalla Commissione Europea, nato per volontà dell'ERSAF, che è l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, del Parco Nord Milano, di Regione Lombardia, dell'Istituto Forestale Sloveno e del Ministero Sloveno per l'agricoltura e le foreste. Enrico Calvi, che è un dirigente dell'ERSAF, è stato project leader del progetto EMUNFUR, e sentiamo appunto su quali linee si è sviluppato e che risultati ha dato. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di mettere a fuoco un protocollo di monitoraggio delle foreste urbane e periurbane, cioè identificare all'interno delle diverse esperienze internazionali quali potessero essere per l'Italia e per l'Europa uno strumento abbastanza semplificato di valutazione delle foreste urbane e periurbane che i soggetti poi responsabili della gestione delle foreste e della pianificazione territoriale potessero adottare. Cosa vi ha avvicinato alla Slovenia? Il rapporto con la Slovenia è stato un rapporto fondamentale per due motivi. Per un verso perché le condizioni delle foreste urbane della Slovenia sono sostanzialmente diverse da quelle che si ritrovano in Italia e particolarmente in Regione Lombardia. E il secondo motivo è perché questo link con un paese, un altro paese europeo, permetteva di poi rendere questa esperienza esportabile, secondo la Commissione, ad un livello più ampio di territorio europeo. La diversità tra i due contesti, Lombardia e Slovenia, sta nel fatto che in Slovenia la gran parte delle foreste prossime alle città sono foreste di tipo naturale, di lunga età e quindi molto vicine, prossime perciò alle condizioni di naturalità. Al contrario, invece, l'esperienza lombarda, ma spesso anche italiana, è stata quella nella storia di vedere ridurre le superfici forestali intorno alle città per essere poi ripiantate successivamente in questi ultimi 30 anni. Quindi in Lombardia particolarmente siamo in condizioni di foreste sostanzialmente giovani, che hanno 30-40 anni di età perché sono state ripiantate. Questo che differenza comporta? Beh, diciamo che ci sono sostanzialmente due condizioni rilevanti diverse. La prima condizione è quella di natura, come dire, strutturale. Le foreste intorno a Lubiana, alla città di Celje, Maribor ed altro sono foreste di tipo naturale perché essendo in sito da innumerevoli anni, da centinaia di anni, sono foreste in cui quindi i meccanismi ecologici funzionano da molto tempo. Le foreste urbane invece hanno solo 30, 40, 50 anni o anche meno, quindi sono foreste molto giovani, sono foreste che sono appena partite su una scala di vita di una foresta che può valere diverse centinaia di anni, quindi hanno dei meccanismi ecologici che solo adesso si stanno cominciando a instaurare. Tutto questo è reso evidente dalle diverse condizioni di maturità dei livelli ecologici. Facciamo alcuni esempi: la vegetazione erbacea, la stessa struttura forestale, la presenza di popolazioni animali sia di fauna superiore che di insetti carabidi è molto diversa tra le nostre foreste e le foreste della Slovenia. Quindi noi anche attraverso proprio questa esperienza di progetto abbiamo reso evidente quali sono i gradi di evoluzione e di maturità degli ecosistemi diversi. Questa stessa situazione noi l'abbiamo confrontata anche, per esempio, con un'area sperimentale qui in Lombardia, che è il Bosco Fontane in provincia di Mantova, che è una foresta storica antica di diverse centinaia di anni, per non dire migliaia, dove abbiamo collocato una stazione di controllo delle nostre scopi sperimentali di monitoraggio, e anche lì abbiamo verificato esattamente questa condizione. E quindi questo diventa un modello di riferimento per gestire, per sviluppare nei prossimi anni con adeguati interventi le foreste più giovani. Ecco, perché proprio questo era uno degli obiettivi, no? Immagino, cioè capire come gestire queste foreste periurbane che sono molto importanti. Vogliamo ricapitolare un po' che cosa può servire una foresta periurbana? Allora, le foreste urbane e le foreste periurbane oggi certamente sono uno di quegli ambienti più, come dire, più richiesti e più desiderati dalle popolazioni cittadine. Dobbiamo ricordare che in Lombardia, in Italia, ma anche in Europa, ormai più del 70-75%, in Lombardia più dell'80%, vive in aree urbane metropolitane, in cui le condizioni di qualità di vita sono spesso piuttosto difficili. Lo sperimentiamo probabilmente tutti noi nella nostra vita, lo leggiamo quotidianamente sui giornali, i problemi dell'inquinamento, i problemi della difficoltà di muoversi, i problemi della cosiddetta isola di calore nelle città, il problema del riuscire ad avere degli spazi di vita e di benessere che siano funzionali alle attuali esigenze. Ecco, allora, gli spazi verdi e in modo particolare le foreste costituiscono questo contesto di supporto al miglioramento della qualità ambientale della vita, che non è solo appunto una qualità dell'ambiente, perché le foreste urbane migliorano il microclima, perché rendono paesaggisticamente più bello e più vivibile un quartiere o un'area metropolitana, ma perché offrono anche gli spazi in cui passare del tempo libero, in cui i ragazzi possono incontrare e conoscere il mondo naturale, cosa che oggi è assolutamente sconosciuta nelle giovani generazioni. Quindi le foreste urbane offrono tutta una serie di servizi ecosistemici assolutamente rilevanti per il miglioramento degli standard di vita degli ambienti cittadini. Quindi adesso i risultati di questo lavoro che voi avete fatto saranno a disposizione dei, non lo so, le amministrazioni provinciali, beh, finché esistono, di chi deve gestire queste aree, giusto? Sì, sì, certamente. Noi proprio col termine del progetto, al 30 di settembre, verrà pubblicato sul sito del progetto, che è www.emonfur.eu, sarà pubblicato online un manuale interattivo che è indirizzato agli operatori del settore, quindi ai proprietari per esempio, piuttosto che ai tecnici delle amministrazioni pubbliche che gestiscono il patrimonio verde, piuttosto che ai tecnici forestali, ma anche agli stessi amministratori ed enti che esercitano funzioni di pianificazione e di governo del territorio. Verrà pubblicato, dicevo, questo manuale online che contiene sostanzialmente tre grandi capitoli. Un capitolo dedicato alla gestione, come gestire queste aree naturali, come un secondo capitolo dedicato al monitoraggio, come realizzare delle azioni di monitoraggio per capire come gli interventi e come queste foreste si sviluppano nel tempo per tenere sotto controllo i diversi fattori, e il terzo capitolo è dedicato alla identificazione e valutazione dei servizi ecosistemici che queste foreste producono. Avete progetto di proseguire, no? Mi diceva, c'è stata questa collaborazione con la Slovenia, quindi immagino che le cose andranno avanti al di là del progetto LIFE comunque nel futuro. Sì, veniamo proprio da due giorni di lavoro a Lubiana con i colleghi sloveni, con i quali abbiamo fatto il punto della situazione rispetto ai risultati al prodotti di progetto. Abbiamo già convenuto certamente di presentare un nuovo progetto ad altri bandi europei e non solo, ma di rinforzare questa collaborazione nella valorizzazione di quanto fatto attraverso la realizzazione di una rete locale, noi e loro, e di una rete europea di gestori di foreste urbane, per incrementare per un verso la consapevolezza rispetto a questi ecosistemi così importanti e delicati e dall'altro migliorare la capacità nostra di gestire queste foreste. Allora ricordiamo www.emonfur.eu per i lombardi che vogliano vedere quanto verde hanno a disposizione, quante foreste hanno a disposizione. Per tutti gli altri, attraverso questo sito, diciamo, diamo l'invito a cominciare un censimento simile per non farsi sfuggire il tesoro che abbiamo a disposizione. Da Laura Bettini un saluto, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.